Ad alta voce, Tommaso Ragno legge I 10 giorni che sconvolsero il mondo, di John Reed, traduzione di Barbara Gambaccini. Capitolo VII. Il fronte rivoluzionario. Sabato, 10 novembre. Cittadini, il Comitato Militare Rivoluzionario dichiara che non tollererà alcuna violazione dell'ordine. Furti, azioni di pirateria, rapine a mano armata e ogni tentativo di pogrom saranno severamente puniti. Seguendo l'esempio della Comune di Parigi, il Comitato reprimerà senza alcuna pietà saccheggiatori e fomentatori dei disordini. La quiete regnava sulla città. Non si verificò una sola aggressione, né un furto, neppure una rissa tra ubriachi. Pattuglie armate perlustravano ogni notte le strade pervase da silenzio. E ai principali crocicchi, soldati e guardie rosse rannicchiati attorno a piccoli fuochi ridevano e cantavano. Nelle ore diurne grandi folle sostavano sui marciapiedi per ascoltare le accalorate e interminabili discussioni tra studenti e soldati, uomini d'affari e operai. I cittadini si fermavano in strada per interpellarsi vicendevolmente. I cosacchi arrivano? No. Che notizie ci sono? Non so niente. Dove sarà Kerensky? Si dice che si trovi a poco più di 8 chilometri da Pietroburgo. È vero che i bolscevichi si sono rifugiati sull'Aurora? Sembra. Solo i manifesti attaccati ai muri e alcuni degli ormai rari giornali sopperivano alla carenza di informazioni, riportando smentite, appelli, decreti. Un enorme cartello recava l'appello isterico del Comitato Esecutivo dei Deputati Contadini. Essi, i bolscevichi, hanno osato affermare di godere del sostegno dei soviet e dei deputati contadini e di parlare, pertanto, anche per loro. Tutta la Russia operaia deve sapere che si tratta di una menzogna e che tutti i contadini, per mezzo del Comitato Esecutivo del Soviet Parrusso dei Deputati Contadini, respingono con indignazione qualsiasi partecipazione dei contadini a questa violazione criminosa della volontà delle classi lavoratrici. Un altro manifesto, emanato dalla sezione dei soldati del Partito Socialista Rivoluzionario, riportava: il folle tentativo dei bolscevichi è ormai prossimo al collasso. La guarnigione è divisa, i ministeri sono in sciopero, il pane scarseggia. Tutti i partiti, ad eccezione dei bolscevichi, hanno abbandonato il congresso. Sono rimasti soli. Facciamo appello a tutti gli elementi sani affinché si raggruppino attorno al Comitato per la salvezza del Paese e della Rivoluzione e si preparino seriamente a rispondere al primo appello del Comitato Centrale. In un foglio speciale il Consiglio della Repubblica enumerava le sue disgrazie. Il 7 novembre, cedendo alla forza delle armi, il Consiglio della Repubblica è stato costretto a sciogliersi e a sospendere, seppur provvisoriamente, il lavoro. Gli usurpatori del potere, che tanto parlano di libertà e socialismo, hanno istituito un governo basato sulla violenza arbitraria. Hanno arrestato i membri del governo provvisorio e soppresso i giornali, impadronendosi delle tipografie. Un simile governo non può che essere dichiarato nemico del popolo e della rivoluzione. Noi tutti dobbiamo combattere per farlo cadere. Il Consiglio della Repubblica, nell'attesa di riprendere la sua attività, esorta i cittadini a stringersi attorno alle sezioni locali del Comitato per la salvezza del Paese e della Rivoluzione, le quali operano quotidianamente per il rovesciamento dei bolscevichi e per la costituzione di un nuovo governo capace di condurre realmente il Paese all'Assemblea Costituente. Il Dielo Naroda scriveva: con il termine rivoluzione si intende la sollevazione di un popolo intero. In questo caso con chi abbiamo a che fare? Con un esiguo manipolo di dementi, ingannati da Lenin e Trotsky. I loro decreti e i loro appelli si aggiungeranno presto alle collezioni del Museo delle Curiosità Storiche. Il Narodni Slovo, la parola del popolo, organo socialista popolare. Un governo operaio e contadino. Una pura illusione. Nessuno, né in Russia né nei paesi alleati, lo legittimerà. Neppure i paesi nemici potrebbero farlo. La stampa borghese era provvisoriamente scomparsa. La Pravda pubblicò un resoconto della prima riunione del nuovo JIK, il Parlamento della Repubblica Sovietica Russa. Miliutin, commissario dell'agricoltura, rimarcò durante la seduta che il comitato esecutivo dei soviet contadini aveva convocato per il 13 dicembre un congresso contadino pan-russo. «Non possiamo aspettare», aveva aggiunto. «L'aiuto dei contadini ci è necessario. Propongo quindi di convocare noi stessi questo congresso, immediatamente». I socialisti rivoluzionari di sinistra si dichiararono favorevoli e un appello ai contadini russi fu rapidamente predisposto, mentre veniva eletto un comitato di 5 membri per rendere esecutivo il progetto. Le questioni dei piani di ripartizione della terra e del controllo operaio sull'industria furono rinviate fino al giorno in cui gli esperti avessero terminato i loro rapporti. Quando Trotsky si era recato al Ministero degli Affari Esteri per far tradurre il decreto della pace nelle principali lingue estere, 600 funzionari gli avevano sbattuto in faccia le loro dimissioni. Per quanto Shliapnikov, commissario del lavoro, avesse ordinato a tutti gli impiegati del suo ministero di riprendere i loro posti entro le 24 ore, pena la perdita non solo dell'impiego, ma altresì del diritto alla pensione, aveva ottenuto unicamente l'obbedienza degli uscieri. Allo stesso modo, alcune sezioni del Comitato Speciale di Approvvigionamenti, pur di non sottomettersi ai bolscevichi, avevano sospeso la loro attività e, nonostante le ripetute lusinghe di aumenti salariali e di un miglioramento delle condizioni del lavoro, anche le impiegate della centrale telefonica si erano rifiutate di mantenere il collegamento con il quartiere generale sovietico. Il Partito Socialista Rivoluzionario aveva votato l'espulsione dei membri rimasti al congresso dei soviet e di quelli che stavano partecipando all'insurrezione. All'esterno, nella semioscurità di quella giornata cupa e malinconica, udimmo provenire da ogni direzione le sirene delle officine, un suono rauco e intermittente, carico di presagi. Decine di migliaia di operai, uomini e donne, si riversavano per le strade. Un'orda opaca e miserabile che fuoriusciva da ogni tugurio. La rossa Pietrogrado versava in grave pericolo. Arrivavano i cosacchi. Зачем смеяться, если сердцу горько? Зачем встречаться, если ты грустишь со мной? Зачем играть в любовь и увлекаться, когда ты день и ночь мечтаешь о другом? La marea umana si dirigeva verso sud e sud-ovest attraversando le vecchie strade che conducono alla porta di Mosca. Uomini, donne e fanciulli, tutti armati con fucili, picconi, banghe, rotoli di filo di ferro, le cartucciere penzolanti dai vestiti da lavoro. Mai si era potuto vedere un simile spontaneo esodo capace di coinvolgere tutta la città. Come un fiume in piena, essi defluivano veloci, trascinando con sé compagnie di soldati, cannoni, camion, automobili, carri. Il proletariato rivoluzionario mostrava il proprio petto innanzi a coloro che intendevano mettere in pericolo la capitale della Repubblica operaia e contadina. Fronte all'ingresso di Smolny vi era un veicolo in sosta. Un uomo magro, i cui occhiali dalle lenti spesse facevano risaltare i grandi occhi cerchiati di rosso, era appoggiato al parafango, le mani infilate nelle tasche di un logoro soprabito. Parlava a fatica con un marinaio grande e irsuto, dallo sguardo limpido, tipico della giovinezza, il quale passeggiava avanti e indietro senza tregua, trastullandosi quasi con indifferenza, senza mai allontanare la mano, con un enorme revolver in acciaio blu. Si trattava di Antonov e di Benko. Alcuni soldati intendevano legare alla pedana dell'auto due biciclette militari, ma l'autista, nel timore che esse ne avrebbero rovinata la vernice, si opponeva con ostinazione. Benché lui stesso fosse bolscevico e consapevole che l'auto appartenesse a un borghese e che quelle biciclette fossero destinate a uso militare, la sua dignità professionale di chauffeur si ribellava. Alla fine le biciclette furono abbandonate. I commissari del popolo alla guerra e alla marina si stavano recando a ispezionare il fronte rivoluzionario. Chiedemmo loro di accompagnarli, ma non vi erano più posti liberi sull'auto già occupata da due commissari, due soldati d'ordinanza e lo chauffeur. Malgrado ciò, uno dei miei conoscenti russi, che chiamerò Trucicca, si installò tranquillamente nella vettura e non vi fu modo di farlo scendere. Non ho alcun motivo di dubitare di quanto successivamente egli mi riferì. Mentre percorrevano il corso Suvorovsky, qualcuno osservò che sarebbe stato meglio fare provviste, giacché la regione in cui si stavano recando e dove sarebbero rimasti alcuni giorni era decisamente mal rifornita. Fermata la vettura, il commissario alla guerra, quello alla marina e lo chauffeur si frugarono nelle tasche. Nessuno di loro disponeva di un solo centesimo. Alla fine fu Trucicca a pagare il vitto. Come se non bastasse, alla svolta della Nevskij scoppiò una gomma. «Cosa possiamo fare?» domandò Antonov. «Requisire un'altra macchina», suggerì Di Benko brandendo il suo revolver. Antonov, postosi nel mezzo della carreggiata, fermò una vettura guidata da un soldato. «Necessito della vostra macchina», disse Antonov. «Non potete averla», rispose il militare. «Forse non mi avete riconosciuto?» continuò Antonov, presentandogli un documento che certificava la sua nomina a comandante in capo degli eserciti della Repubblica Russa e in cui si sosteneva che tutti dovessero obbedirgli senza discutere. «Se anche foste il diavolo in persona», ribadì il soldato per nulla intimidito, «non avrete questa macchina. Essa appartiene al primo reggimento mitraglieri e trasporta munizioni». In quel momento sopraggiunse un vecchio taxi con la bandiera italiana. In tempi difficili come quelli, accadeva spesso che vetture private venissero registrate a nome di consolati esteri, così da evitarne la requisizione. Fatto scendere il pingue proprietario, avvolto in una sontuosa pelliccia, fu possibile riprendere il viaggio. Alla barriera di Narva, a circa 16 chilometri da Smolny, Antonov chiese di parlare con il comandante della Guardia Rossa e fu condotto all'estremità della città, dove alcune centinaia di operai, scavate profonde trincee, parevano in attesa dei cosacchi. «Tutto bene, compagni?» domandò Antonov. «Ottimamente», rispose il comandante. «Il morale dei soldati è eccellente, solo non abbiamo munizioni». «A Smolny sono disponibili 2 miliardi di proiettili», lo rassicurò Antonov. «Vi lascio l'ordine da presentare loro». Frugate le tasche, chiese «Qualcuno ha un foglio di carta?» Né Di Benko né i messaggeri ne avevano. Trucicca offrì il suo taccuino. «Al diavolo! Mi manca anche la matita!» si spazientì Antonov. «Chi ha un pezzo di matita?» Naturalmente anche quella fu fornita da Trucicca. Nel frattempo, noi, che non eravamo riusciti a salire sull'auto, ci recammo alla stazione per raggiungere in treno Sarko Yeselò. Risalendo la Nevskij, osservammo diverse guardie rosse sfilare armate, alcune prive, altre fornite di baionette. Mentre il crepuscolo invernale scendeva rapido, marciavano nella melma gelata in colonna per 4, a testa alta, senza che musica e tamburi ne ritmassero il passo. Sopra di loro svettava una bandiera rossa su cui erano vergate le seguenti lettere dorate: pace, terra. Erano molto giovani, le espressioni del viso contratte di coloro che sanno di andare incontro alla morte. In parte impauriti, in parte sprezzanti, i borghesi affollati sui marciapiedi ne osservavano il passaggio in un silenzio carico di risentimento. Alla stazione nessuno aveva precise informazioni sulla posizione di Kerensky o su quella del fronte. Tutti i treni terminavano la loro corsa a Sarkoye-Selo. Il vagone su cui viaggiavamo era stipato di campagnoli che rientravano dal lavoro stracarichi di pacchi e giornali della sera. Per quanto ogni conversazione vertesse sulla rivoluzione bolscevica, non vi erano altri segnali che palesassero la guerra civile in corso, né il fatto che quel treno si stesse rapidamente avvicinando alla zona in cui fervevano i combattimenti. Certo, dal finestrino si potevano scorgere nell'incalzante oscurità colonne di soldati armati che si avviavano discutendo lungo la strada fangosa in direzione della città, e un treno merci carico di truppe e illuminato da grandi falò sostava in un binario di raccordo. Ma nient'altro lasciava presagire la gravità della situazione. All'orizzonte, alle nostre spalle, la luce della capitale smorzava il sopraggiungere della notte. Un tram si inerpicava su per un remoto sobborgo. A Sarkoye-Selo l'apparente serenità era smorzata dalla presenza di gruppi militari che discutevano a bassa voce, lanciando sguardi ansiosi sulla via deserta. Quando domandai loro a quale partito appartenessero, mi fu risposto: «A dire il vero non sappiamo cosa pensare. Kerensky è senz'altro un provocatore, ma non possiamo accettare che dei russi sparino sui loro fratelli». Nell'ufficio del commissariato della stazione vi era un soldato semplice, grosso, gioviale e barbuto, che indossava la fascia rossa di un comitato di reggimento. Le credenziali consegnateci a Smolny ci fecero guadagnare subito un certo rispetto. Per quanto egli si mostrasse decisamente favorevole ai soviet, sembrava piuttosto disorientato. «Le guardie rosse erano qui 2 ore fa, ma sono ripartite. Un commissario è venuto stamattina, ma è tornato a Pietrogrado non appena sono arrivati i cosacchi». «Allora i cosacchi si trovano qui?» Scosse tristemente la testa. «Si è combattuto. I cosacchi sono arrivati la mattina presto. Hanno fatto prigionieri 200 o 300 dei nostri soldati, uccidendone 25 o 30. Adesso dove si trovano?» «Non molto lontano. Non so esattamente dove, ma si sono diretti da quella parte», rispose accennando a ovest. Al ristorante della stazione mangiammo meglio e a un prezzo migliore di quanto avessimo fatto a Pietrogrado. Accanto a noi sedeva un ufficiale francese appena arrivato da Gaccina. «La città», sosteneva, «era in mano a Kerensky, tutto era tranquillo». «Ah, questi russi», proseguì, «che popolo! Quanto pare bizzarra questa guerra civile, sembra facciano di tutto pur di non combattere». Facemmo una sortita in città. All'ingresso della stazione 2 soldati, baionetta in canna, erano circondati da un centinaio di persone, commercianti, funzionari e studenti che gli inveivano contro, apostrofandoli con violenza. A disagio, i 2 parevano ragazzini ingiustamente rimproverati. A guidare l'attacco, un giovanotto alto, dal volto arrogante, abbigliato con l'uniforme di studente. «Di certo voi capirete, suppongo», li interpellava con insolenza, «che armandovi contro i vostri fratelli vi trasformate negli strumenti di una banda di assassini e di traditori?» «Vi sbagliate, fratello», rispose uno dei 2 con serietà. «Siete voi a non capire. Vi sono 2 classi, il proletariato e la borghesia». «Noi ho già sentito questa storia», lo interruppe lo studente. «A una massa di contadini ignoranti come voi altri è sufficiente ascoltare qualcuno gridare un qualche slogan per ripeterlo come tanti pappagalli senza neppure averne compreso il significato». La folla rideva. «Io sono uno studente marxista», continuò, «e vi assicuro che non state affatto combattendo per il socialismo. Al contrario, state aprendo le porte a un'anarchia favorevole alla Germania». «Oh, so bene», riprese il soldato, la fronte imperlata di sudore. «Voi siete una persona istruita, si può ben vedere. Io sono un uomo semplice. Eppure mi sembra, Suppongo, lo interruppe nuovamente l'altro con disprezzo, che riteniate Lenin un vero amico del proletariato. Così è, rispose il soldato. Ebbene, amico mio, vi faccio presente che Lenin ha attraversato la Germania in un vagone piombato, ha preso soldi dai tedeschi. Oh, io non so nulla di tutto questo, ribatté il soldato con ostinazione. Ma trovo che quanto lui asserisce sia esattamente quello che io e tutta la gente come me abbiamo bisogno di sentire. Ripeto, ci sono due classi, la borghesia e il proletariato. Siete pazzo, amico mio. Mentre voi sparavate contro i rivoluzionari cantando «Dio salvi lo zar», io trascorrevo 2 anni a Schlüsselburg, impegnato in azioni rivoluzionarie. Avrete sentito parlare di me. Sono Vassili Georgievich Panin. «No, mi dispiace», rispose umilmente il militare. «Io non sono che un sempliciotto, non un eroe, quale voi certamente siete». «Esattamente», replicò lo studente, convinto. «E combatto i bolscevichi che portano la nostra madrepatria alla rovina, calpestando la nostra rivoluzione. Come spiegate voi questo?» Il soldato si grattò la testa. «Non so spiegarlo», ammise. Il volto contratto per lo sforzo di riflessione. «Per me è tutto molto chiaro, ma del resto non sono che un ignorante. Comunque mi sembra evidente che vi siano 2 classi, proletariato e borghesia». «Ecco che ricominciate con quello stupido slogan», gridò lo studente. «2 classi», continuò risoluto il soldato, «e chi non sta nell'una è nell'altra». Lungo la strada, pressoché deserta, fiochi e lampioni si susseguivano a grande distanza. Un silenzio greve di minaccia pareva incombere sulla città. Si aveva l'impressione di trovarsi in una sorta di anticamera dell'inferno, una zona politicamente neutra. Unica eccezione, le botteghe dei barbieri che risplendevano di luci e rigurgitavano clienti. Alla porta dei bagni pubblici si era perfino formata una coda. Era infatti un sabato, giorno in cui tutta la Russia fa il bagno e si profuma. Si poteva perfino pensare che i sovietici e cosacche si trovassero in questi luoghi gli uni al fianco degli altri. Man mano che ci avvicinavamo al parco imperiale, le strade si facevano sempre più deserte. Un prete, nell'indicarci con aria spaventata il quartiere generale del Soviet, fuggì via. Questo si trovava nell'ala del palazzo granducale che fronteggiava il parco. Dalle finestre non fuoriusciva alcuna luce e la porta era chiusa. Un soldato intento a passeggiare con le mani nella cintura dei pantaloni ci osservò con sguardo sospettoso. «Il Soviet ha traslocato 2 giorni fa», ci informò. «Dove si trova al momento?» «Non lo so». Si udirono forti colpi di martello provenire da un vasto edificio tutto illuminato. Mentre noi esitavamo, un soldato e un marinaio sopraggiunsero a braccetto. Presentai loro il mio salvacondotto di Smolny, domandando: «Voi appoggiate i Soviet?» Senza rispondere, si scambiarono sguardi inquieti. «Cosa succede là dentro?» chiese il marinaio, indicando l'edificio. «Non so». Con timidezza, il soldato si decise ad allungare il braccio e a socchiudere la porta. Ci apparve una grande sala, decorata con festoni di stoffa e piante sempreverdi. File di seggiole erano rivolte verso un palco in costruzione. Una donna robusta, martello in mano e bocca ricolma di chiodi, si avvicinò. «Cosa volete?» «Ci sarà uno spettacolo questa sera?» domandò il marinaio timidamente. «Domenica sera ci sarà una rappresentazione di dilettanti», rispose la donna severamente. «Ora andatevene». Cercammo nuovamente di avviare la conversazione con il soldato e il marinaio, ma quelli, rispondendo in tono diffidente e imbarazzato, si allontanarono ben presto nell'oscurità.